Addio monti. Addio monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo. Cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Torrenti le quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Addio. Alessandro Manzoni.